Cuando esponda la luna a marecchiare, pure le pese se fanno l'amore. Me ribota la luna del mare per la priesa cogna do colore. Quando sponda la luna a marecchiare, a marecchiare ti sta la fenesta, la passione bianca e murmurea, un garafano adora in dalla testa passa l'acqua per sotto murmurea, a marecchiare c'è sta una finestra. Oh, oh, oh, a marecchiare, a marecchiare c'è sta una finestra. Chi dice che la stella sta lucendo, non sappiesi tu che cazzo tiene in fronte. Si tua stella lucia giù sulla mente, dindo il cuore tengo una risponde. Chi dice che la stella sta lucente? Se state caro lì, all'aria e dolce quanto mai, quanto tempo ha già aspettato, da sire una chitarra io ho portato, da sire una chitarra io ho portato, seta di caroni all'aria dolce. O seta te, seta de Caroli, con aria e voce.